Guardi che cosce, guardi che piscipiti. Questa qua, per fortuna che non sa giocare a pallone, sennò risolverebbe le questioni di molte squadre. Allora cosa faccio? Vado? Come vado? Andiamo in Brasile. Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. Ma cos'è questa base? Io volevo Guerre Stellari. Che meraviglia. Tum, tum. Siamo passati dalle piccolezze di Ibra a Giovanni Capuano, alle grandezze delle piscine olimpiche. Cos'è questa base di un bailado brasiliano? Io volevo Guerre Stellari, volevo la cavalcata delle Valchirie di Berlusconi a memoria. No, ma ci arriviamo con calma. Come, con calma? È soltanto il primo agosto. Abbiamo ancora da tirare fino al 5. Poi fino al 21, perché saremo qui io e Giovanni Capuano tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, per ascoltare le vostre voci, per parlare di Olimpiadi dintorni con un sacco di ospiti. Beh, molto già oggi abbiamo tante medaglie da raccontare, le prime gare, i primi record. Intanto salutiamo Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Pietro Lacorte, così abbiamo preso tempo. Abbiamo preso tempo e quali medaglie? Ci accompagneranno anche loro e tanti altri. Allora facciamo così. Sì. La cavalcata delle Valchirie non ce l'abbiamo? Ce l'hai, Pietro? Eh? Star Wars, va bene, mandami Star Wars che presento la squadra. Così mi piace anche un po' di più. Io chiamo gli ascoltatori sulla base di Star Wars. 800240024 è il numero verde. Giovanni Capuano, mio compagno di banco per queste serate olimpiche, non notti, ci racconteranno degli altri, come Dario Ricci, nostro inviato a Rio. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben trovati, buone Olimpiade. Buone Olimpiade con un po' di anticipo e soprattutto la nostra guest star, dopo che abbiamo trovato l'accordo con la sua agente Wanda Nara, c'è Leo Turrini che ci farà compagnia per Olimpiade. Ciao Leo. Guardate che dopo la musica che avete scelto io mi proclamo il vostro Ciubecca, perché Dario Ricci va benissimo nei panni di Han Solo, ma io faccio Ciube. Fai Ciube. Quindi, Ciube, preparatevi, parlerò per borborigmi, insomma, con degli strani rumori di fondo. Eccoci qua, siamo pronti. Sulla base. Quanta enfasi, ragazzi! Quanta enfasi per queste Olimpiadi! Traffico, dobbiamo lasciare il traffico. Ma che traffico? Guarda, adesso non c'è il traffico. Ci sono gli ascoltatori, ci saranno sempre all'800240024. E allora cominciamo con una domanda facile. Cosa dici, Giovanni Capuano? Ma sì, dai, partiamo con. Con una domanda facile: la Juventus è più forte con Higuaín o senza Higuaín? No, quella. Oppure voi ve ne andreste se nel vostro hotel non ci fosse la piscina come Ibra? No. Io sì, perché tra l'altro, io la piscina la voglio. Gli australiani se ne sono andati dal villaggio olimpico perché non c'era l'acqua, c'era puzza di gas. Su quello, e se la sono presa. Come dargli torto. Però nessuno ha detto che dopo sono tornati, due giorni. Sì, ho capito, ma d'altra parte oggi abbiamo parlato anche con Leo Turrini, che ha già messo l'elmetto, di quel giornalista australiano di cui mi raccontavi tu, no, Giovanni, che ha tentato di fare la doccia, non solo non è scesa l'acqua, ma gli è caduto il rubinetto in testa. Abbiamo anche degli aggiornamenti, Leo, poi te li dico. Segnati questo nome, Andrew Wittenberg. Andrew Wittenberg. chi cazzo è? Tu segnatelo e poi ti racconto. È un altro che è già arrivato al villaggio media, dove Leo non c'è perché lui comodo arriverà. Beh, anche Dario arriverà all'ultimo, come si conviene all'estate. Prendono l'aereo insieme Dario Ricci e Leo Turrini. Mi raccomando, tenuta combat, ragazzi. Sì, quello è sicuro. Elmetto, soprattutto per proteggersi dai rubinetti cadenti. Sì. Questo è il rischio principale. E non solo. Domani sull'aereo per Roma mi hanno detto alcuni miei compagni di viaggio che dovremmo stare insieme al 7 rosa, quindi insomma facciamo da scorta a una squadra che tutto sommato quel podio potrebbe anche acciuffarlo. Sì, no? A una delle due o tre medaglie potenziali italiane, due o tre, non di più. Anche meno, siamo ottimisti invece. Tu sei pessimista, Leo Turrini pure, io lo so perché... No, Oggi abbiamo mandato gli exit poll, 25 medaglie, dice Malagoma, quando mai? No, io prendo sempre molto sul serio uno studio che viene pubblicato ogni 4 anni da una rivista scientifica americana, ma è vero, che di solito dichiara e ci prende che l'esito olimpico di una nazione dipende dall'andamento del PIL dei 4 anni tra un'Olimpiade e l'altra. Allora, noi aspetta che chiamo Giannino. Aspetta bravo, che telefoniamo a Oscar Giannino. Chiamo Giannino oppure Barigioni. Oppure Barigioni. Allora, noi abbiamo fatto Londra 28 podi. Sì. Nei 4 anni successivi, voi siete Radio 24, sì. Sapete meglio di è tutti. Andata bene, no? È andata bene. Ecco, non è che le cose siano andate benissimo, e quindi se hanno ragione questi studiosi anglosassoni, io temo ce l'abbiano, ritengo che 20 medaglie complessive costituirebbero un risultato apprezzabile del Bronzo. Che è poi Sport Illustrated anche, insomma. Sì, ho visto che anche ci mette a quota 20 medaglie. Sì, io penso che sarebbe già un risultato buono. Poi tutto quello che viene in più ci mancherebbe altro. Allora, ragazzi, facciamo un giro di opinione di quelli epocali. La vostra medaglia preferita nella storia delle Olimpiadi, cui avete assistito da bambini davanti alla televisione, ascoltando la radio, oppure da navigati professionisti seguendo i giochi? Italiana o in assoluto? Io direi, partirei da quella italiana, poi ti dico anche... Andiamo facile, abbiamo tre settimane, Leo, non corriamo. Beh, vabbè, allora se comincio io, quella italiana vista dal vivo, anche perché viene dalle mie terre, certamente la maratona di Stefano Baldini ad Atene nel 2004. Perché c'era una suggestione particolare, Atene 1896, Spiridon Lewis, il primo maratoneta che vinse l'oro, e poi si arrivava in quello stadio del Panathinaico, no? Antico. Come no? E devo dire, insomma, fu anche una gara surreale perché c'era in fuga, credo, proprio un brasiliano, non so se vi ricordate, gli tagliò la strada un pazzo che già l'anno prima in un Gran Premio d'Inghilterra di Formula 8 aveva invaso la pista. Sì, ma avrebbe vinto lo stesso Stefano, adesso non sminuiamo questa cosa. Non potevano stirarlo. Non potevano stirarlo quando ha invaso la pista. Voglio dire che fu una gara speciale anche per questo, insomma, no? Perché ci fu il colpo di scena. Quindi di quelle italiane viste da vicino, certamente. E invece, visto che mi volete coinvolgere a un livello più emotivo, insomma, a 20 anni, 200 metri di Mennea a Mosca, la telecronaca di Paolo Rosi, recupera, ha vinto. Su Alan Wells, medaglia d'oro vinta per 2 centesimi di secondo. Per chi è della mia generazione, anche perché se riguardate. Ma anche per chi è dopo, della tua generazione, anche per noi giovani. Anche per noi giovani. Olimpiadi, io mi accorgo, è normale che sia così, cioè, non è vero, cioè, chi ha 30 anni oggi, Mennea non lo conosce, se non per filmati d'epoca, e quindi invece è una roba proprio molto nostra, chi aveva 20 anni allora, ovviamente anche chi ne aveva di più, quella gara lì, l'imbocco della curva, Pietro che è indietro di quasi 5 metri su Wells, fa questa rimonta pazzesca, e tutta la storia dell'uomo che c'era dietro, che era terza volta che tentava, che insomma dava ogni stile di energia per quel traguardo in particolare, insomma, mi dispiace che chi ha 20 anni oggi non sappia che cos'è un'emozione così. Non sa che cosa però, si è perso. Si può rivivere, e questi sono i giorni giusti. Prima del traffico, Leo Turrini, questa te la regalo. Baldini, a Atene. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo! Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro di questi Giochi Olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei Giochi Olimpici, è italiana, va a Stefano Baldini, bravo, bravo, bravo, medaglia d'oro! Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. E questo sempre per le autorini che le ha evocate tutte e due. Guarda, bravi, insomma, svegli, non è che siamo qui a pettinare le bambole, ti leggo due messaggi, a smacchiare le giraffe. No, come diceva Giampiero Galeazzi, non lo fate da oggi questo mestiere. Bravo. Guarda, ti leggo due messaggi che sono arrivati: 349-238-6666, sms, whatsapp. Ricordiamo anche gli amici a casa: 800-24-0024. Oggi vogliamo sapere il pantheon delle vostre emozioni olimpiche italiane, la medaglia che vi ricordate, anche se non avete 70 anni come Leo Turrini, insomma, anche se siete più giovani. Allora, un amico scrive: su una colonna di casa mia c'è scritto con un gesso bianco dagli anni 70: viva Mennea, viva Gimondi e viva l'Inter. Viva l'Inter. Poi un altro che scrive: è più facile che Vettel vinca il mondiale quest'anno o che noi italiani arriviamo in finale sui 200 metri? Che Vettel vinca il mondiale quest'anno? Sì, perché sui 200 metri la finale la vedo complicata. Leo Turrini lo sa meglio di tutti noi. Insomma, io penso che entrambe le cose però non si realizzeranno. No. Ci sarà un altro Mennea ai blocchi di partenza a Rio della finale di 200 e Vettel non vincerà il mondiale. Dario Ricci, la tua medaglia preferita? Ma guarda, devo dire che tra quelle che ho viste dal vivo, che sono infinitamente meno di quelle del professor Turrini, o meglio di Ciubecca Turrini, devo dire il bronzo di Valentina Vezzali a Londra 2012. Non so se vi ricordate quella finale in cui Valentina, discretamente incazzata perché era stata sconfitta in semifinale, era sotto, mi pare vada a memoria, di 5-6 stoccate a una quarantina di secondi dalla fine contro la coreana. A quel punto sono cominciati 40 secondi più straordinari della storia della scherma, perché si è visto questo prodigio della Vezzali che ha rimontato in un tempo infinitesimale, ha conquistato il bronzo. E che tra l'altro ci hanno regalato un'immagine stupenda, che secondo me è ancora una delle immagini storiche dello sport italiano, cioè le tre bandiere italiane sui tre pennoni del podio di Londra. Certo. Elisa Di Francesca, Arianna Errigo e Valentina Vezzali. Io non so se era capitato prima qualche altra volta, chiediamo al professor Turrini, che conosce da Ondina Valla tutta la storia delle Olimpiadi. Questa è una provocazione. Però era successo, bisogna andare indietro molto nel tempo. 1800. Ma io volevo però citare un'altra medaglia invece a livello globale, più la cosa che voi non sapete è che è giusto far sapere al popolo di Radio 24. Alle Olimpiadi, da alcune edizioni, esiste anche la disciplina dei tappeti elastici, dei trampolini elastici, lo sapevate? Sì. Provato a dimenticarlo, c'è anche il bridge. No, c'è ancora il bridge? No, il bridge non c'è. Saltano il Fil Rouge, Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri. Ma lasciami finire, perché questa è una cosa sulla quale secondo me dovremo tornare durante l'Olimpiade medesima. Allora, sapete chi ha vinto l'oro a Londra nei tappeti elastici, alzando, insomma, facendo piroette mostruose, eccetera? Un cinese, no? E voi direte, vabbè, non di quelli che hanno comprato l'Inter. Ma sapete come si chiama il campione olimpico di tappeti elastici cinese? No, non ci dormo la notte, no? Leo. Si chiama Dong Dong. È una cosa pazzesca, sembra inventata. Un campione olimpico di tappeti elastici cinese si chiama Dong Dong. No, io... prego, controllate, non sto inventando nulla. Io vado a Rio per intervistare adesso controlliamo. Dong Dong. Adesso controlliamo. Io sono pronto a litigare con gli ascoltatori sull'esclusione di alcune discipline che sono state introdotte alle Olimpiadi e che mi ricordano Giochi senza frontiere con Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri. Secondo me ci sono delle Fil Rouge, cioè, secondo me ci sono delle cose in cui si assegnano delle medaglie che non hanno non diritto di cittadinanza nel mondo dei passatempi. O dei passatempo. Però io ti devo lanciare subito un severo monito, manco dimmelo. Fosse in Napolitano al Quirinale. Giù le mani da Dong Dong. Giù le mani, per carità. Se tu estenda questa tua invettiva contro il leggendario Dong Dong, che veramente io voglio proprio a Rio conoscere di persona, che a Londra non ce l'ho fatta, perché uno che si chiama Dong Dong e rimbalza sui tappeti e là. Quella sera noi siamo qui, ci chiami e ce lo passi. Allora, guarda, faccio una diretta con Dong Dong, che poi scopriremo che è di Suning, è azionista dell'Inter, sicuro. O magari è quello che compra il Milan, chi lo sa. Questa attenzione che dedicherete a Rio dalle Olimpiadi, senza gli occhi, le gambe, il sedere della Isinbayeva. non sogno degne di essere seguite, scrive un ascoltatore. Ma mi sembra che si banalizzi. La Isinbayeva, la prima donna ad andare oltre il muro dei 5 metri nel salto con l'asta, insomma, non è solo quelle cose lì. Allora, le medaglie. Davide da Reggio Emilia dice Alberto Cova e Gabriella Dorio, credo si riferisca a Los Angeles 1984. Chiaro. Franco che dice medaglia preferita è quella di Nino Benvenuti, poi c'è chi ricorda l'incredibile silenzio durante la performance agli anelli di Yuri Keiki. Stiamo parlando di Atlanta 1996. Max da Pinerolo, la mia medaglia è quella che io non c'ero, ovviamente ero davanti al televisore, tanti ricordano come un momento di grandissimo orgoglio per lo sport italiano, la pallanuoto a Barcellona sotto gli occhi del re con un arbitro un po' ladro, 9-8 e insomma, e medaglia d'oro per il nostro sette bello. Magari Leo c'era. No. C'eri a Barcellona a vedere il Dream Team con ovviamente sì, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. Il Dream Team, devo dirvi che fu quel Dream Team il primo, un evento assolutamente fuori da ogni tipo di immaginazione, fu un salto nel futuro, perché per chi conosceva l'Olimpiade, quello che era vedersi arrivare queste superstar anche mediatiche, non solo a livello agonistico, e poi notare come ci tenevano, perché ovviamente avrebbero vinto anche giocando con una mano legata dietro la schiena, certo. Però si aveva proprio la percezione che per loro era un momento importante, e questo è stato molto bello per chi si riconosce ogni 4 anni nel fascino dell'Olimpiade. Perché sappiamo, poi ne parleremo tanto in questa vicenda brasiliana, no? Si dice, ma l'Olimpiade non ha più senso, è troppo business, è troppa politica, troppa corruzione, eccetera. Poi però quando arrivi lì, vedi che anche delle superstar assolute, io ho visto le due finali anche del basket degli Stati Uniti contro gli spagnoli, sia a Londra che a Pechino, no? E vedevi che Kobe Bryant e LeBron James erano felici come bambini. Ma certo. Visto che Kobe è venuto l'altro giorno in Italia, ha detto l'oro olimpico è la vittoria più importante della mia carriera, certo, che ha conquistato anelli e tutto il resto, hai capito? Quindi è questo secondo me che ancora è il bello, l'unico, l'irripetibile dei giochi. Leo, tu lo chiedi a Michael Jordan e più o meno ti dice la stessa cosa. Larry Bird andò alle Olimpiadi con la schiena a pezzi in quel Dream Team del 92 e ti dice io ricordo quando mio padre si alzava in piedi davanti alla televisione e metteva la mano sul cuore davanti all'inno americano e io sono andato per quel ricordo, suo padre che era deceduto in circostanze drammatiche perché morì suicida. E tutte queste storie. Dario, buongiorno, buonasera. Ciao. Anzi, io e Capuano siamo abituati a orari diurni, adesso siamo all'ora dell'aperitivo olimpico. Tra poco il fuso salta per tutti, ragazzi. Salta per tutti, sì. Portiamoci avanti. Dario? Tonto, Dario da ciao. Bergamo. Ciao, ciao. Ciao. Allora, una cosa, volevo parlare in merito a Dong Dong, che o Kong Kong, non mi ricordo. Dong Dong. Che non può essere neanche paragonato a Oba Martins, che anche l'altro giorno ha fatto un Eurogol e ha fatto capriole per tutto il campo. Non so se l'avete visto. Io no, ma ci credo. E poi questo Olimpiade io porterei l'Inter a fare il torneo, perché almeno la medaglia li la vincerebbe. No? No. No. No, secondo, no? Secondo me no. Siamo una società fortissima, teniamo i cardi, rinnoviamo. Siamo una squadra fortissima. Ma anche la società sta dando un input di forza, tenendo tutti, trattenendo tutti, e l'anno prossimo sotto con le spese a comprare altri campioni. E via. No, non lo so. Io, secondo me la medaglia d'oro non la vincerebbe l'Inter in questa Olimpiade, però mi sbaglierò io. Siamo ai giochi di ruolo. Bruno? Dica Giovanni Bruno. A Giovanni Bruno mi scrivono. Ti hanno Bruno, scritto Bruno, era il tranello. Mi fate gli scherzi, direttore di Sky. Vabbè. Ciao Giovanni. Ciao. Qual è ciao la tua medaglia? Cioè, ormai siamo a lunedì, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. È il nostro debutto in questa fascia olimpica dalle 18 alle 20. Siamo partiti dal banale, se vuoi. Però la medaglia, la medaglia azzurra del cuore. La medaglia azzurra nel cuore è Bordin. Gelindo Bordin. Bordin 88, grande rimonta, e un ricordo redazionale che ero praticamente con i più sul tavolo e continuavo a urlare come un disperato, modello Mennea, sì. Nell'80, però nell'80 insomma si lavoricchiava, nell'88 lavoravo pesante, e quindi diciamo quella è una bella, come pure Stefano Baldini se parliamo di maratona, ma ce ne stanno tantissime, diciamo, come cosa. Ma Giovanni, ma tu come uomo olimpico queste cose me le hai raccontate tante volte, quante volte ti sei messo a urlare nella cabina di regia mentre eri a responsabile delle trasmissioni Rai, Sky, eccetera? Me le hai raccontate molte volte, ma sono molto divertenti. Praticamente mi disinteressavo più poi del prodotto, perché diventavo un super tifoso, poi Leo lo sa perfettamente su queste cose. Cioè, anzitutto sono dovuto scappare alla scherma da Londra per la finale dell'Excel, e tutti che mi inseguivano dicevano: ma che facciamo dopo? Io ho detto: chi se ne frega, è che quello che fate dopo, stiamo vincendo l'oro nella scherma, che è una cosa poi per dal punto di vista italiano quasi di una banalità incredibile, no? Se uno ritorna ai tempi di Mangiarotti e via di seguito, però vedere la sfida tutta italiana di Francesco Enrico è una cosa che era da urlo. E poi dopo è subentrato la pietà per la mamma, che le ha prese di Francesca di rimonta, e di rimonta pure il terzo posto con la Vezzali. Quindi poi abbiamo pensato alla povera coreana Nam, che però insomma chi se ne frega, ma a quel punto realmente divento un super tifoso, cioè adoro qualunque cosa, mi innamoro di Frangilli, tifo Campriani e la sua fidanzata e la sua compagna o la moglie, cioè quindi sono... Non lo so, mi piace da matti, che devi fare? Allora, Gerindo Bordin ha preso altre due citazioni, Norma da Verona, il primo uomo bianco che ha vinto la maratona a Seul, Gerindo Bordin, e anche Alessandro. Poi a proposito dell'88, c'è anche chi ricorda gli Abbagnale. Come Enrico. Si fa a dimenticarli? Con Galeazzi, perché poi diciamo, l'armo era tre, cioè non è il due con il timoniere con Peppinello di capo, ma era quattro con l'urlo di Galeazzi. Ma perché possiamo dire la verità? Che poi nella memoria storica di tanti che fanno le Olimpiadi sul divano, che poi sono la stragrande maggioranza, ovviamente, rimane l'impresa sportiva, ma spesso rimane se è legata anche a un racconto emotivo, emozionale. Poi parleremo con Antonio Rossi, che è stato un altro dei miracolati, credo, dai grandi racconti della sua epopea olimpica. Prima qualcuno ci ricordava una telecronaca di De Zan, si riferiva a un mondiale, non a Olimpiade, la pallottola di Goodwood, e c'è anche questo, alle Olimpiadi avete la fortuna di essere embedded e di essere autorizzati a esserlo, insomma. Ecco che scatta Saronni, ma l'unico problema fu il momento che dette la parola al bravissimo Gimondi, che diciamo fece un po' cadere l'urlo di De Zan. No, ma beh, c'era Paolo Rosi con il Mennea, Mennea, Mennea, Mennea, e poi ripetuto il Cova, Cova, Cova, Cova. Però era un mondiale, non era un'Olimpiade, quindi non potete votare. No, potete votare quello che volete, ragazzi, ma votate quello che volete, lo sport è emozione. Leo Torrini, Giovanni Bruno, lo conosci bene in cabina di redazione, qualche volta bisogna tenerlo, no? No, bisogna dire una roba, avendo Giovanni con noi, sì? Non tutti sanno che Giovanni Bruno è uno dei più grandi ciclisti italiani viventi. Io no? lo so perfettamente. Perché, a fronte delle salite con un passo che viene anche il dubbio che usi la bicicletta col motorino, lui nega, col supporto elettrico. Però, dato che Giovanni è qui, potrebbe essere la medaglia d'oro numero 200 per l'Italia sabato, volevo chiedergli se pensa che Nibali ce la possa fare veramente, quella che sarà la prima gara che potrebbe tingersi di azzurro, la prova su strada dei ciclisti. Io dubito. Non lo so, io ho visto gli spagnoli molto forti, tanto per cambiare. Però la realtà potrebbe esserci, perché la squadra italiana è fortissima, cioè, mi piace moltissimo Diego Rosa, mi piace sicuramente Cassani, sacrificherà De Marchi e avrà come freccia Nibali non è stupido, Nibali è uno che sa fare la corsa molto bene sugli altri, e secondo me potrebbe essere Leo. Potrebbe essere Vincenzo Nibali, se si inventerà qualcosa, ed è uno dei pochi corridori al mondo in grado di inventarsi qualcosa. Io per salutare Giovanni Bruno voglio fare una domanda difficile, che è una considerazione che ho fatto prima. Vorrei mondare, Giovanni, permettimi, tu sei un purista dello sport e io ho il massimo rispetto di ogni disciplina sportiva, però vorrei mandare le Olimpiadi da alcuni sport che hanno pieno diritto di cittadinanza come passatempo, come attività di base, eccetera eccetera. Però prima si citava il tappeto olimpico, questo proliferare delle discipline stravaganti ai giochi olimpici, tu come la vedi? Una cazzata biblica. Ah, quindi allora non vorresti, maestro, la kickboxing che chiede Mauro da Catania, no? Dong dong sul tappeto elastico ce lo possiamo risparmiare? No, francamente no, io preferisco che venga aggiunta la medaglia non a rotazione nella scherma, cioè trovo che sia deprimente dove ci sono la scherma squadre, vabbè, quest'anno ci dice proprio male perché esce fuori una medaglia certa che è quella del fioretto femminile, sì, però chiaro. La realtà, le medaglie tolte a rotazione non hanno senso nella squadra, diciamo, non lo so, è qualcosa di particolare. Poi permettimi, visto anche col golf, non lo so, ma perché hanno rinunciato tutti, la zica o forse l'ingaggio? Ma no, anche il rugby a 7 è come mandare il calcetto al posto del, ma sì, il rugby non può essere giocato in un torneo olimpico, non può essere fatto, si fece nelle Olimpiadi dell'epoca perché duravano mesi e mesi nei parchi e nelle fiere, ma non si poteva non si può fare il rugby. L'International Board si è rifiutato mille volte di poter studiare una formula, è impossibile. Guarda, c'è un amico, Andrea da Trento, che scrive: golf, rugby, tennis, calcio sono sport con tradizioni troppo profonde nella loro storia per far parte delle Olimpiadi. Tennis, calcio sono sport, non sono come l'Argentina, che a un certo punto aveva nove persone che potevano andare alle Olimpiadi e tutti gli altri erano stati negati dai Giovanni, club, è la negazione dello spirito olimpico. Sì, la possiamo parlare di spirito olimpico, però niente, tra un po', come mi suggeriva Lorenzo Naspoli della regia, troveremo il Pokémon Go ai giochi olimpici, voglio dire, sì, insieme no. al bridge a Rubamazzo. Beh, il bridge ha rischiato di entrare benissimo, nell'Olimpiada invernale, non ce li vedo proprio. Io sono un classico da questo punto di vista e ti assicuro, diciamo, nella mia memoria Non mi viene in mente di andare a vedere o di ricordare un risultato del trampolino o di altri tipi di discipline Bravo. Particolari di questo genere, non ce l'ho. Ritorno forse a 1912 quando si faceva il tiro alla fune, sì, ma aveva esatto. una sua dignità il tiro alla fune. Sì, perché per assurdo. Per assurdo sì, perché a quei tempi poteva essere uno sport agonistico. Senti, torniamo a disturbarti se non ti dispiace, direttore, nel corso di queste serate olimpiche. Ma ci mancherebbe, mi beccherete urlante, ma... Lo so, ma è proprio quello che vogliamo. Noi aspettiamo solo quello, Giovanni Bruno. Grazie. Grazie davvero. Grazie allora, a voi. Un saluto a tutti. Ciao, dobbiamo fermarci. Un attimo, Leo Turrini, Dario Ricci, collegati con noi, Giovanni Capuano qui con me, Maria Luisa da Milano. Qui daremo la parola subito dopo questa breve pausa. 800 24 00 24, il numero verde, vi aspettiamo. Tutti convocati. Vieni a giocare con noi, Danny. Per sempre. Beh, di solito gli amici immaginari sono meno inquietanti di così. I miei sono personaggi con i quali sono cresciuto attraverso la televisione, il cinema, i fumetti. Se volete, ve li presento. Sono Giovanni Savarese. Vi aspetto ad agosto con L'Amico Immaginario, ogni sabato alle 23 e la domenica alle 14, naturalmente qui, su Radio 24. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Convocati alle Olimpiadi. Aldo Montano, Aldo Montano, campione olimpico, decima medaglia della famiglia Montano, medaglia d'oro. Non abbiamo dimenticato Sara Simeoni. Le diciamo, patate perché... fritte un sono mai troppe, disse Aldo Montano dopo un quella giorno racconteremo, medaglia. Un giorno racconteremo. Tra non molto. Abbiamo appena cominciato questi appuntamenti con... Tutti convocati alle Olimpiadi, che sarà con voi ogni giorno, da lunedì a venerdì, fino alla fine dei Giochi Olimpici, dalle 18 alle 20, soprattutto con la vostra voce, con quella di Giovanni Capuano, con quella di Leo Turrini che è collegato con noi, ovviamente con quella del nostro inviato Dario Ricci. Io chiedo perdono in ginocchio a Maria Luisa da Milano che ci aspetta da un sacco di tempo in linea. Davvero mi prostro. Chiedo scusa in ginocchio per l'attesa. Perché è una storia meravigliosa da raccontare. Sì. Vai, allora, posso raccontare? Siamo certo. Qua. Volevo ricordare gli allori delle Olimpiadi di Berlino del 36, in cui tre italiani hanno vinto l'oro, l'argento e il bronzo, e la squadra ha vinto l'oro. E i nomi sono Riccardi, Cornaggia e Ragno. Riccardi, l'oro, mio padre, ci tenevo a dirlo. E poi, vabbè, poi c'erano, questa è Spada, Spada, sì, ferma. Spada. E poi c'era anche Los Angeles, 32, oddio, adesso non mi... Amsterdam il 28, altre medaglie d'oro, tutti gli italiani, sempre Riccardi, sempre Cornaggia e altri. Signora, ecco, dove sono quelle medaglie d'oro? Le ha lei? Certo, le abbiamo noi tre figli che siamo ancora viventi. Per lungo tempo, fino alle Olimpiadi del 3097, ecco, 98. Sì. Comunque le medaglie sono le medaglie, le foto, tutti gli articoli dei giornali a San Colombano al Lambro. Potete rivolgervi anche all'azienda Nettere dei Santi di San Colombano, che è stata poi iniziata da papà dopo gli allori della scherma, e vi possiamo mostrare tutto quello che vi fa piacere, insomma. Signora Maria Luisa Riccardi, perché non ci viene a trovare una sera qui a Radio 24? Dove? A Radio 24, vi mando mio nipotino che ci vi fa assaggiare il vino. Ci mandi suo nipotino? Anche col vino, va benissimo, lei. Anche col vino? Sì, però io vorrei vedere almeno qualche foto. No, non chiedo di vedere e toccare con mano il Sacro Graal, però... Certo. Però non chiedo tanto, però almeno vedere soprattutto qualche fotografia di quell'Olimpiade storica. Via mail, via WhatsApp, vi posso mandare tutte le foto che volete. E allora ci mettiamo d'accordo, perché quell'Olimpiade del 36... Adesso recuperiamo il numero, lo teniamo, poi sì, la contattiamo. La signora Maria Luisa, andiamo a disturbarla Maria di tanto Luisa. In tanto. No, non mi disturbate, mi fa molto piacere. Davvero? Perché quelle Olimpiadi sono state dimenticate, perché erano le Olimpiadi fasciste, purtroppo. No, ma per niente, fa parte però della nostra storia, non è questo da dimenticare. C'è da ricordare una cosa importante. Che l'ultima stoccata e la medaglia d'oro di mio padre è stata contro un tedesco, per cui c'era Hitler che era furibondo. Sì. Ma guardi, non è vero che sono state dimenticate, sono Olimpiadi storiche, cioè non c'entra il luogo e il padrone di casa, anzi a maggior ragione, e per questi racconti sono qualcosa di unico, di storico, di leggendario. Grazie. Qualcosa da libro di storia, per l'appunto. Sì, non di sport, no, ma non importa. Immortali, grazie signora. Telefonatemi, grazie. Volentieri. Leo Turrini, cosa dici? Le cose belle e anche commoventi, vedi quello che dicevamo prima all'inizio, no? Cioè, un'Olimpiade è qualcosa di particolare, poi tocca anche tante singole vite, no? Questa è la figlia che ricorda il padre che prima della Seconda Guerra Mondiale è stato un grande della scherma. E noi siamo consegnati alla dimensione dello sport business, no? Ho sentito che dicevate all'inizio, Ibra, l'hotel, non c'è la piscina e tutto. Però anche se è banale, anche se suona retorico, c'è tantissima verità nelle vite di quelli che sono poi i protagonisti delle discipline dei giochi, no? Non solo la scherma. Io però vorrei abbassarvi il tono aulico della trasmissione. Bravo. Signor Riccardi, e vorrei citarvi una storia fantastica. Vi ricordate Sydney 2000, Pino Maddaloni, campione olimpico di judo? Come dimenticarlo? Benissimo, allora io vado a seguire le finali del judo aspettando Maddaloni, e a un certo punto, in una diversa categoria da quella di Pino, chiamano sul tatami, no, la materassina, il rappresentante delle isole di Tonga, no? Sì. come si chiamava il rappresentante dell'isola di Tonga nel judo? Posso dirlo? Dong. Si chiamava Travolta Paperino. Una cosa pazzesca. Per tutto vero, anche qui possiamo salutarlo. Perché sì, dopo Giovanni dice: io mi invento queste cose. No, andate a vedere gli archivi. Chiamava così perché la mamma tongana, no, la mamma tongana, era una fanatica di John Travolta. Qui ci vorrebbe You Should Be Dancing dei Bee Gees, no? Il padre tongano era un fanatico di Paperino. Sua leggeva solo Paperino, no? E quindi Travolta Paperino. Esatto, e saliva sul tatami Travolta Paperino. Io feci un tifo pazzesco per questo eroe tongano, che però devo dire, altro che Pino Maddaloni, era un pippone inaudito, fu eliminato subito. Ce l'abbiamo trovata, la canzone. Un'Olimpiade è anche questa, Travolta Paperino, Isole Tonga, Olimpiadi di Sydney del 2000. Cioè, voglio dire, davvero in Olimpiade c'è di tutto, no? Ce lo dicevamo prima. Ma noi avremo modo Jordan di parlarne. C'è Jordan e c'è Travolta Paperino. Noi avremo modo di parlarne anche di dintorni dell'Olimpiade, più o meno piccanti, perché sappiamo come a Rio in questi giorni succederà qualunque cosa di cui Leo Torrini e Dario Ricci ci terranno informati. Leo, ci sentiamo domani. No, aspetta. Aspetta, cosa? Andrew Wittenberg, che è un collega di Leo Torrini, qualche ora fa ha twittato 3 foto. Lui è in un hotel nel villaggio Media. È caduto non successo. Come Leo Torrini, che andrà nel 7 stelle di Copacabana. Certo, però insomma, lui è uno, Dario Ricci, è uno così. E c'è questa foto dei servizi di questa stanza dove torna tutto indietro e tutto, immaginate che cos'è. Leo, preparati. Ragazzi, mi state incoraggiando molto bene. Sono pronto. Perfetto. Ciao Leo. Dario Ricci, che per me è un maestro, un modello, un punto di riferimento anche culturale. Te lo salutiamo sicuramente, Dario Ricci. Anche lui è prontissimo per annessi e connessi olimpici, eccoci, che ci racconterà, no? Eccoci qua. D'altra parte bisogna pure capire che o tornano indietro o gli quami o vanno in mare per la gara del nuoto di fondo. Insomma, meglio indietro, assolutamente. Anche quello nel circuito olimpico. Ma Dario, ma non è che a Pechino, cioè poi si fosse lì a nuotare nell'oro come zio Paperone, no? Pure lì c'era stata qualche disfunzione, mi ricordo. Diciamo che c'è sempre parecchia enfasi prima che si accenda il braciere olimpico, no? Nel descrivere i limiti e le cose che mancano. Di solito l'accensione del braciere qualcosa sistema, perché poi cominciano le gare, quindi un po' il quadro d'insieme alla fine si perde, no? Perché certo, ognuno poi si sposta sulla cosa. Tra l'altro abbiamo citato un sacco di volte Gimondi, no? Come uno che mai con l'Olimpiadi non c'entrava niente. In realtà Gimondi fu, perdonate la citazione dotta, ma solo per far giustizia Felice, fu 33esimo a Tokyo 64 in una prova, in una delle poche medaglie d'oro vittorie che sfuggì a Merckx, perché Merckx in quella gara arrivò 12esimo, gara vinta in volata dal nostro Zanin. Quindi insomma, vedi quanto è grande il cuore di un'Olimpiade, ci sono anche questi campionissimi. E Leo Torrini era già inviato, purtroppo non può smentire. Abbiamo il traffico. C'era. Grazie, c'era Dario. Ci sentiamo domani, Dario Ricci. Allora, c'è chi scrive: giusto per amore della verità, il padre di Michael Jeffrey Jordan è stato assassinato durante un tentativo di furto, non si è suicidato. Io stavo parlando di Larry Bird, non di Jordan. So che il padre di Jordan è morto in quelle circostanze. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Debutto, prima puntata di Tutti convocati alle Olimpiadi, che vi terrà compagnia fino alla fine dei Giochi Olimpici, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Radio 24 col sottoscritto Giovanni Capuano, bla bla bla bla bla bla. Siamo qui per voi, 800 24 00 24, ma siamo qui anche per presentarvi le nuove superstar dell'estate di Radio 24, che Bruno Ballardini, autore di un libro bellissimo, Contro lo sport a favore dell'ozio. Questo è il titolo, adesso vi spieghiamo tutto. Bruno, buongiorno. Buonasera. Buongiorno a tutti. Allora, tu sai chi è Filippo Roma e sai chi sono Filippo Roma e Umberto Alessi, no? Sì. Le Iene. Lo so. Ok, sono qui con noi. Vorrei che tu presentassi il loro programma I Fuori Posto. Oddio, non l'ho ancora visto. E non l'ho ancora. Non devi sentirlo. È difficile vederlo perché va in radio. Quindi devi sentirlo su Radio 24 ogni mattina alle 10 e in punto. Precisi. 10:00 e in replica subito dopo di noi. Quindi per delle serate memorabili su Radio 24. Ci prenderemo tutti i vostri numerosissimi ascoltatori e anche i vostri numeri di telefono. Delle vere Iene. Sì. Ragazzi, prima di interrogare Bruno Ballardini, che ha scritto questo libro che è un'idea geniale, io voglio chiedervi come vi trovate a lavorare insieme a Radio 24. A Radio 24 io mi trovo benissimo. Mi trovo benissimo a Radio 24, ma sto compare qua che ho davanti Umberto Alessi. Stai facendo outing? Sto facendo outing. Mi ha rotto le palle, si può dire, mi ha rotto le palle. Anche i coglioni, sì. Anche i coglioni, mi ha rotto i coglioni, Umberto. Lo dico in faccia a tutti in diretta nazionale. Ecco. Grazie. In diretta, io mi aspettavo una di quelle dichiarazioni molto che fanno gli attori, no? Come è stato lavorare nel film? È stato bellissimo, è nata una nuova amicizia. No, in realtà devo dire anche io che è stato un incubo lavorare con Filippo Roma, perché ad agosto tutto il tempo chiuso in cabina con lui, cioè non è un bel vedere, no? O ti piace un po', Carlo? Vabbè, io ho altri gusti. Ragazzo, per carità, bello, grazie, bello, grazie, ragazzi. Bello, ragazzo. Si vede che è falso, no? Ragazzo, Giovanni. Ragazzo interessante, però posso fare qualcosa? Cioè, non lo so, posso fare qualcosa per rendervi la convivenza meno problematica. Guarda, vi dico la verità, voi siete molto gentili ad ospitarci e a correre questo rischio. Ma vi dico, io avevo scritto il programma I Fuori Posto perché inizialmente dovevo condurlo io e Belen. Sì. Poi hanno detto sarebbe stato meglio per tutti noi, ma capito, tu pensa a Belen che si aggira qui per Belen i corridoi. No dai, mi offendo. Offenditi pure con... tu mi adorizzi, posso dire una cosa, sti cazzi, cioè, sti cazzi. Se sei beccato Filippo Roma al posto di Belen, molto attacchi. E quindi anche per me è stata un'esperienza orribile. Senti, ma noi proveremo in questa settimana a fare qualcosa, a riconciliare la coppia. Peraltro, sì. Possiamo fare una terapia. Ti dico una cosa, che all'inizio ci hanno preso tutti sotto gamba, ma già dopo stamattina, dopo la prima puntata, dove gli ospiti si rifiutavano di venire, insomma, molte celebrity vogliono intervenire nel nostro programma. Adesso, per esempio, mi arrivano dei messaggi da Federica Pellegrini, che è impazzita per I Fuori Posto, ci dicono, e vorrebbe intervenire in diretta. Che dici, la facciamo intervenire o no? Ci pensiamo. Giovanni, ci pensiamo? Solo se vince la medaglia. Solo se vince la medaglia. Sennò noi... Glielo vogliamo dire? Sì. Cioè, cara Federica, se vinci la medaglia, magari ti... Magari ti chiamiamo. Magari Giovanni, Carlo, io e Filippo ti chiamiamo. Sì. Ma non assicuriamo niente. No, non c'è niente di certo. Invece, che libro ha scritto Bruno Ballardini? Ma ha scritto... Il titolo è meraviglioso. Meraviglioso in queste due settimane. Insomma, è Contro lo sport a favore dell'ozio. E che è bellissimo, perché ribalta tutti i dogmi, cioè anche del periodo olimpico, che sospendono le guerre, che a parte che... Insomma, lo facevano al tempo dei Leo Turrini, oggi non si fa più, che lo sport fa bene al fisico, alla mente, e invece tutte balle. Sì, effettivamente, ma il problema è questo, ci sono parecchi argomenti, non è soltanto a favore dell'ozio, cioè, l'ozio non è inteso come non fare niente, sarebbe impensabile non fare niente, sai che palle dopo un po', e a favore delle attività... spontanee, naturali, soprattutto a favore del gioco, che noi ci siamo persi per strada, perché ciò che viene criticato principalmente dello sport moderno, agonistico, è che ha perso il suo carattere ludico, è diventata una cosa terribilmente seria e quindi non ci si diverte più, o perlomeno si divertono giusto gli spettatori, e allora lì prende la deriva dello sport spettacolo, che è una parte del problema, cioè lo spettacolo ipocrita che pretende anche una sua moralità, quando poi per avere quello spettacolo, ad esempio, occorre necessariamente per esempio il doping, no? Sì. Io non faccio altro che raccogliere le opinioni provocatorie anche di molti studiosi che sono già acquisite dal mondo dello sport, come ad esempio lo storico Kruger, tedesco, che dice: volevate lo sport spettacolo e quindi dovete accettare il doping per forza, perché quelle performance disumane non le potreste avere in modo diverso. Mm. E questo è molto interessante. Non trattasi di evoluzione della specie. No, assolutamente no, e c'è l'aiutino sempre, per cui bisogna mettersi d'accordo. C'è tutta una nuova corrente, ad esempio sul doping, che dice: beh, si potrebbe però accettare la modica quantità, come per le droghe. Non è accettabile la modica quantità. Esistono due estremi che possono essere la liberalizzazione del doping, quindi il diavolo, o la radiazione, l'acqua santa. Attualmente sì, attualmente è così. Liberalizzare sarebbe un'idea, no? Sfondatevi tutti, sfondatevi tutti. Per i professionisti. È l'opinione di Savulescu, del professore di Oxford. Uh-huh. Ci sono varie opinioni. Questo è solo uno degli argomenti, perché poi in realtà poi c'è quella ibrida, per cui facciamo l'antidoping, che magari qualcuno lo becchiamo, russo o meno, esatto. però io sarei per uno dei due estremi: radiazione alla prima positività, oppure per i professionisti liberalizzazione del doping sotto stretto controllo medico. So che sono il diavolo e l'acqua santa, però questo è il mio pensiero. Andiamo con le pene draconiane o con la soluzione totale. Bruno, ci sentiamo nel corso delle Olimpiadi, grazie. Io avevo una domanda per Bruno. Vai, Bruno, mi senti? Abbiamo 30 secondi. Devi tenere per la prossima volta. Vabbè, allora Bruno, magari ti mando un messaggio con la domanda che ho. Va bene. Mi scambierò il numero. Mi raccomando, domani ascolti fuori posto, che ci abbiamo famiglia, va bene? Sicuramente. Vabbè, che ci abbiamo bisogno. Grazie Bruno. Domani mattina alle 10. Ciao. Bruno Ballardini, domani mattina alle 10 troverete Filippo Roma e Umberto Alezzi. E che bella sorpresa. E perché no? Forse anche Bruno Ballardini, chissà anche, perché. Chissà. Ce lo prendiamo noi. Vabbè, siete anche ladri. Sì, siamo qua per copiare, diciamo la verità. No, ma io vi ringrazio, però adesso vi saluto, ci troviamo domani, però sono seriamente sono seriamente preoccupato per la vostra crisi di coppia, quindi io vi giuro farò di tutto per riconciliarvi. Sarà molto difficile, te lo dico. Vabbè, grazie mille. Io ci provo. Allora, domani mattina, fuori posto, Filippo Roma, Umberto Alezzi, intanto tutti convocati alle Olimpiadi, prosegue subito dopo GR, vi aspettiamo, 800 24 0024, numero verde. Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. Questa base, questa samba qua che è. Allora, il sottoscritto Carlo Gento, Giovanni Capuano, tutti convocati alle Olimpiadi, che vi terrà compagnia ogni giorno da oggi fino alla fine dei Giochi Olimpici, lunedì a venerdì, senza dimenticare l'appuntamento del weekend alle 17 alle 19. Faccio un po' il riepilogo. Ogni giorno qui su Radio 24 per parlare di Olimpiadi, dintorni, di come le vivete, di come vi emozionano oppure no, di tutto quello che volete, ragazzi. Sottoscritto, Giovanni Capuano, e soprattutto un sacco di ascoltatori all'800240024, nonché messaggi 349-238-6666, che vale per SMS e WhatsApp. Ivano, buonasera. Buonasera, intervengo intanto, complimenti per la trasmissione, e poi speriamo. volevo chiederle come mai non si è mai pensato, come specialità olimpica, per esempio, il gioco degli scacchi. Lo devo dire che secondo me ci starebbe, insomma, ecco, vedo delle tiro da con la pistola a 5 metri o cose un po' strane. Credo che il gioco degli scacchi con la sua particolarità potrebbe essere. Aveva scritto un altro amico. Non ho mai pensato a questo. Ecco, tu sei un appassionato di scacchi, sì. Sì, sì. Ci scrive un amico: gli scacchi hanno già le loro Olimpiadi. E io da scacchista amerei vederli unificare i giochi olimpici invernali o estivi a scelta, però hanno già le loro Olimpiadi, è vero? Io non lo sapevo. No, io sono. So che una volta mi avevano detto che non li avevano messi perché di solito i giocatori di scacchi sono dei professionisti. Ormai è caduto quel muro, eccetera. insieme a quello di Berlino e molti altri. Quel muro è caduto, cioè i professionisti vanno alle Olimpiadi, gli atleti nel calcio, nel basket, nella pallavolo, sono di fatto professionisti. Guardi Ivano, io non lo so, io rispetto totalmente il suo punto di vista, come quello di dei giocatori di bridge, eccetera, eccetera. Io sono... Ma non... Comunque le Olimpiadi di scacchi esistono. Esistono le Olimpiadi sono di un torneo di scacchi per squadre nazionali, allora... si disputa ogni due anni. La prima edizione nel 27, l'ultima nel 2014 a Tromsø in Norvegia. Credo nel 2016 andranno a Baku, nel 2006 si sono svolte a Torino, così. Quindi le Olimpiadi le hanno collegate con le Olimpiadi invernali, allora. Bah, sì, insomma. Sì, più o meno. Ma allora, il senso è questo, io non voglio offendere nessuno, Ivano men che meno, però io dico, ogni gioco ha il suo diritto di cittadinanza, al suo palcoscenico, al suo pubblico, ai suoi appassionati, ai suoi praticanti, ad ogni tipo di livello professionale o non. Non c'è bisogno di andare alle Olimpiadi per avere questo tipo di palcoscenico. Ivano, questo è il mio pensiero. Poi per me ci sono molte discipline, tipo il salto sul tappeto che ha vinto Dong Dong, ci raccontava prima Leo Torrini, non so in quale edizione, se nel 28 o nel 34. Nel 2012, a trampolino. Vabbè, ragazzi. Trampolino sul, guarda, è presente quanto dura una partita di scacchi, le Olimpiadi durerebbero sei mesi, ha scritto un altro amico. 349, ricordiamo i numeri: 800 24 00 24, 349 238 6666. Adesso non fatemi essere cattivo, perché poi finiamo per litigare, non mi va tanto, però io distingo tra, ho una profonda distinzione tra il passatempo e l'attività sportiva. Il passatempo, che ha pieno diritto di cittadinanza, ci sono delle forme di passatempo che sono meravigliose. Lo sport è quello che si gioca si disputa con i pantaloncini corti e la maglietta, in cui si deve essere in forma fisicamente, in cui c'è una prestazione fisica che è premiata. Adesso datemi del razzista sportivo se volete, però ci sono molte discipline, anche olimpiche, che sono borderline con giochi senza frontiere, come dicevo prima. Il che non vuol dire togliere dignità a questi hobby, però non vuol nemmeno dire farne degli sport a tutto tondo. Ora, questo è soltanto il mio pensiero. Giorgio, buongiorno, buonasera. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dica. Io ho un carissimo, bellissimo ricordo che voglio ripetere. Ho 76 anni, sì. Sono veronese, sì. E nel 48 avevo 8 anni, la mia città era un cumulo di una serie, non dico che si patisse la fame, ma insomma non andava proprio bene. Successivamente poi ho letto che il povero De Gasperi, grande primo ministro, andava in giro quasi col cappello a chiedere, non dico l'elemosina, ma gli aiuti a tutti gli stati. Improvvisamente alla radio nel 48 Consolini, si chiamava Adolfo, non mi ricordo il nome, vince la medaglia d'oro per il lancio del disco e di Spopolo. Cosa meravigliosa. Da lì, secondo me, è ripartita anche la voglia di rifare un pochino l'Italia. Sport ha molti di questi, a molti di questi aspetti. Ecco, io la ricordo con commozione, perché l'ho vissuta. Grazie per avermi... Grazie a lei, Giorgio. Prima abbiamo sentito la figlia di un oro olimpico alle Olimpiadi del 36, quelle famose di Berlino, di Hitler e di Jesse Owens. Adesso raccogliamo anche questa testimonianza. C'è un'ascoltatrice, si chiama Susi, che scrive: ma è vero che esistono i campionati mondiali di nascondino, che sarà specialità olimpica? Spero sia una bufala, se ne è parlato, del nascondino alle Olimpiadi. Però credo che sia... Posso sdraiarmi in mezzo alla strada per fare un sit-in di anche protesta. Ti dici, ci sono tennis e badminton, ma non c'è lo squash, però c'è il golf. Però amici, non è che si può fare tutto. Già vanno in 10.000 alle Olimpiadi e c'è evidentemente un problema di gigantismo di queste grandi manifestazioni, che le rendono difficilmente organizzabili. Poi magari avremo anche modo, parlando con chi è in Brasile anche già stasera, insomma, di raccontare cosa sta succedendo a Rio e come Rio si stia avvicinando in testa, noi ci scherziamo su, però è evidente che funzionano, evidente al contrario, che sono diventate qualcosa di difficilmente gestibile, tanto che lasciano spesso in eredità dei problemi non da poco, e non soltanto grandi emozioni. Un campionissimo con noi, sentiamo, lanciamolo così. Alle orgoglio, Alain, che sei il più forte del mondo, Alain Beniamino, ancora andiamo a vincere, ancora, e questo è il K2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra, e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda, e per quali campioni, incredibile, la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel. No, possiamo dire una cosa, lo salutiamo, Antonio Rossi. Ciao Antonio. Buonasera. Lui è un uomo fortunato, perché è uno dei, non so, 10-15 uomini in Italia che può dire di essere stato raccontato da Galeazzi. Piero Galeazzi. No, eravamo in tre su quella barca. Sì, tre, poi gli Abbagnale, insomma, non è che siete molti. Non siete tantissimi ad avere questo video, questo audio in bacheca. Molto bella, tra l'altro ogni volta che lo sento sono sempre grandi emozioni, insomma mi fa rivivere qua lì, tra l'altro è una delle gare più belle che ho fatto nella mia carriera, era l'oro di Sydney. Ma 2000. Tu davvero avevi guardato a destra e a sinistra o se l'era inventato Giampiero? No, è vero, è verissimo, anche perché ai 500 metri sapevo già di poter prendere l'oro, insomma, perché siamo passati davanti. E quindi mi sono gustato gli ultimi 500 metri. A lui a un certo punto dice: bisogna stare attenti agli svedesi, però noi stavamo controllando. E ti dirò: tu dici, bisogna essere concentrati quando si fanno le gare olimpiche, no? Io in realtà negli ultimi 100 metri pensavo anche fare tante cose, al podio, alla bandiera, all'inno, ma anche al commento di Galeazzi. Oh, scrive un amico, 349-238-6666, guarda come sono maliziosi, visto quanto urlava Giampiero Galeazzi, se lo sentivi anche. No, scherzo, non lo sta scrivendo nessuno, me la sono inventata adesso. Lo sentiva, l'ha detto, no? Se lo immaginavo, anche perché poi a Sydney eravamo andati qualche giorno prima, per via del fuso orario e tutto quanto, e Giampiero insieme all'allenatore Oreste Perri ci aveva seguito anche col gommone. Oddio, il gommone non andava tantissimo, perché tra Giampiero e Oreste, insomma, erano due pesi massimi, però sapeva, insomma, i nostri punti di forza, quanti colpi dovevamo scendere, quindi insomma ci conosceva molto bene, e in realtà anche la telecronaca è stata più precisa rispetto a quella di Atlanta del 96, dove lì i colpi erano, non so, 160-180 al minuto, quando invece erano 140. Sì, sì, esagero sempre un po'. Senti Antonio, un giorno Hernán Crespo, che tu conosci bene, sì. Da tifoso milanista, Hernán Crespo, prima di giocare una semifinale di Champions League a Manchester contro il Manchester United, vado a memoria ma credo di non sbagliarmi, nella quale poi segnò, disse, gli chiesero cos'è il gol e lui disse: il gol è un orgasmo. Cos'è la vittoria olimpica? Si avvicina molto, diciamo, è una gioia incredibile. No, assolutamente sì. Poi è tutto, adesso non vorrei essere malizioso e quindi dire qualcosa che si può. No, è anche un po' più lungo. Ci ascolta nessuno, esatto. Un paio di milioni di persone in Italia, ma vai tranquillo. Anche mia mamma, tua mamma, la mamma di Giovanni. È anche un po' più lungo. Quindi quant'altro, perché la mia gara durava. Prova ad avere un orgasmo 100 metri. È durata solamente 3 minuti e 9 secondi. Quindi. Però non aveva torto Crespo. No, è veramente una grandissima gioia. Poi se hai la possibilità di rivivere queste gioie olimpiche è ancora più forte, perché sai già cosa ti aspetti, insomma, cosa ti aspetta, e quindi è veramente ti dà la spinta, soprattutto per quegli sport che sono come il mio, che sono meno popolari, per andare avanti per 4 anni, insomma, soprattutto quando è nel periodo lontano dalle gare, d'inverno, col freddo, insomma, e tu dici, ma chi me lo fa fare? Allora pensi a quei momenti olimpici, insomma, che vuoi rivivere. Senti Antonio, ti faccio un'altra domanda difficile che è uscita spontanea da questo primo colloquio con gli ascoltatori, noi saremo qui tutti i giorni a raccontare tutto sulle Olimpiadi e dintorni. Allora, io prima ho lanciato una provocazione, c'è chi mi ha chiesto gli scacchi alle Olimpiadi, c'è chi ha detto tiro alla fune, il nascondino. Secondo me ci sono sport e forme di passatempo che hanno piena legittimità, ma non è detto che debbano essere per forza le Olimpiadi. Secondo me lo sport è quello che fanno gli atleti e che, per il quale devi prepararti anche fisicamente tutti i giorni. Ora, non voglio essere integralista, ma voglio sapere come la pensi. Beh, oddio, il CIO adesso sta andando su forme, su sport più spettacolari che richiamano più i giovani, quindi insomma li decideranno se far entrare il surf, lo skate e via dicendo, quindi ci allontaniamo un po' da quegli sport che sono anche di resistenza, insomma, e allo stesso tempo cercano giustamente di avere le stesse quote tra maschi e femmine, quindi magari alcune discipline vengono, insomma, la partecipazione, il numero di partecipanti viene diminuito per far aumentare quello femminile. Sì. Io non lo trovo del tutto corretto, ma comunque ci guarderemo anche. Ma noi guarderemo queste, tutto, ti faremo qualsiasi cosa. È difficile, sai cos'è? Ti faremo qualsiasi cosa, parla per tutto. Io sono più per gli sport dove si parte tutti in linea, cioè non in linea, nel senso si parte e chi arriva primo vince. Dove ci sono quegli sport dove c'è un giudice e quindi può entrare la politica sportiva e via dicendo, che assegna le medaglie, lì faccio più fatica. Però lì entriamo nel campo della, ad esempio, della ginnastica, che esatto, è ginnastica, uno sport, penso alle farfalle, penso anche allo stesso di Ricchi nel 2004, sono tante le medaglie che sono, mi sono rimaste qui. Io tra i miei ricordi di Olimpico da divano ho la protesta di Mario Pescante nel 1988 quando si portò via dal ring non ricordo quale pugile italiano totalmente derubato da una casa, soprattutto nel pugilato, insomma, ci sono stati ma poi ricordavate la ginnastica. Dobbiamo ricordare che Antonio Rossi è assessore regionale lombardo allo sport, la Lombardia è la regione che manda più atleti a Rio de Janeiro, anche se ho visto che nella nota c'era aiutino e quindi noi il cartellino giallo per Antonio Rossi, perché dice 44 atleti lombardi a Rio, ma in realtà ho visto che nell'elenco c'è Valentina Diouf che non ci va, però, quindi sono 43, esatto, quindi sono 43, perché poi sono stati ripescati due del canottaggio, quindi sono 45, la Russia non ha esclusi dai giochi e quindi sono entrati tipo Fazzini e un altro ragazzo. Quindi il cartellino giallo è tutto per Capuano. Esatto, a voi che non siete al mio compagno di banco. No, Antonio, ti voglio chiedere solo questo invece ancora, che m'arriva un messaggio SMS di Franco. Nonostante l'ottimismo del CONI, vedo l'Italia fuori dalle top 10 del medagliere, serve obiettività. Io credo che questa Olimpiade non nasca sotto una stella meravigliosa sportivamente parlando. Ma perché, dai, io invece guardo alle Olimpiadi di Londra e di Pechino, dove ci sono stati tanti quarti posti, quindi penso che siamo un po' in credito con la fortuna. E quindi il presidente del CONI, Malagò, dice 25 medaglie. Secondo me si può fare anche qualcosina di più, anche perché togliendo i russi, insomma, qualche posto libero, e soprattutto noi italiani possiamo beneficiarne. Quindi secondo me ci saranno delle belle sorprese. Quanto alla Russia, Antonio? Lombardi, sì. Quanto alla Russia, per chiudere, stai col C o no? Con questa soluzione diplomatica o no? Assolutamente sì, perché sono sicuro che non tutte le discipline hanno baratto, e quindi penso, non so, alla scherma, dove difficilmente, dove c'è anche un tecnico italiano, che Cerioni, possano aver preso delle scorciatoie. Quindi se c'è un atleta pulito è giusto che partecipi. Però non è un controsenso che sta a casa qualche russo, perché poi tra le barriere messe non c'è soltanto chi era dentro quel rapporto, che evidentemente, insomma, i sospetti sono tanti, non vanno neanche atleti con alle spalle una squalifica per doping, ma magari risalente a 7-8 anni fa. Gatlin, che è uno dei favoriti per i 100 metri, ce lo ricordiamo bene, applaudiremo tanti che sono stati squalificati, e questo io credo sia un paradosso che sfocia nell'ingiustizia. Allora a quel punto tieni fuori la Russia tutta, prendi una decisione scomoda, coraggiosa, magari anche sbagliata, ma insomma se ne discute dopo, diventa storia, però così diventa un paradosso che sfocia nella ingiustizia. Anche perché poi il TAS non ha ancora deciso, quindi tenere così sotto giudizio tanti atleti, insomma, è anche brutto, è un modo di vivere l'Olimpiadi completamente surreale, ma anche il messaggio che si dà, quindi probabilmente bisognava arrivare molto prima. Grazie Antonio. A presto. Grazie a te. Comunque io sto partendo. Ma ti chiamiamo, ti manderò qualche messaggio. Come no? Noi ti aspettiamo. Siamo qua tutte le sere, Antonio Rossi, ci mancherebbe altro. Uno dei più grandi campioni dello sport italiano. Nonché, signore, Claudia Schiatto non è più il sex symbol dello sport italiano. Mi fa... Passa il pollice sulla guancia, Claudio Schiaffi. Sì, però guarda che ho vinto 20 anni fa, quindi... Anch'io. Ciao Antonio. Anche Claudio Schiaffi. Ciao, grazie. Allora, ci fermiamo a borsa? Ok, poi andiamo fino alle 20 senza altro, senza più tre rotture di palle, cose varie, eh? Forse no, la verità non c'è. No, non c'è. Andiamo dritti dopo la borsa con Alessandro, Luca e molti altri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Ci siamo quasi, Daniele Molvetti è d'oro! Daniele Molventi, la terza medaglia d'oro dell'Italia. Arriva anche un ulteriore zavorra. Daniele Molventi è la medaglia d'oro, la terza di questi giochi olimpici. E così facciamo un bel ripassone, andiamo a ricordarcele tutte. Le... K1 slalom. K1 slalom. Ricordiamo. 2012, Londra. C'è chi ricorda, Giovanni, la storia che raccontavi tu prima. Nell'88 il pugile che venne portato via da Pescante dal ring dopo quella clamorosa ingiustizia fu Angelo Musone. C'è chi scrive che anche Celai deve diventare sport olimpico insieme alla palla prigioniera. 800 24 00 24 è il numero verde. Alessandro. Ciao, ciao a tutti, ciao. Sono Alessandro e io volevo parlare di una medaglia non vinta in realtà, che è quella di Steve Prefontaine nelle Olimpiadi di Monaco del 72. Quella gara mi ha fatto innamorare della corsa e a rivederla è una cosa pazzesca. Lui arrivò quarto. Sì. Ed era il più forte, era il più forte di tutti e morì in un incidente stradale, sì, quando era uno dei più forti di tutti. Esatto. Talento è una cosa assoluto, che è veramente toccante, almeno per quello che mi riguarda, ma a detta di tanti ho sentito storie molto belle, hanno fatto anche dei film tra l'altro sul personaggio, per cui sì, poi tra l'altro era un corridore, era un fondista del tutto particolare, perché lui era uno di quelli che andava anche contro ogni ragione tattica, lui partiva a 100 e arrivava a 110, esatto, e diceva se ce la faccio vinco, se non ce la faccio c'è qualcuno che è più bravo di me, non vincerò. Fu un personaggio leggendario e come ricordiamo scomparso molto prematuramente quando era ancora una superstar assoluta e quando veniva atteso alla riprova di quei giochi olimpici persi morì in un incidente stradale. Grazie. Il pugile era Vincenzo Nardiello, allora era Musone, allora messo fuori da Park Si-un. Erano i quarti di finale, Park Si-un poi vinse l'oro e fece ancora peggio già con Nardiello, insomma fu un verdetto assolutamente scandaloso, ma fece peggio poi in finale contro l'americano Roy Jones, finale che è passata alla storia come il più grande scandalo della storia della boxe olimpica, tanto che alla fine Jones fu nominato, pur medaglia d'argento, il miglior pugile dei giochi. Vinci il formaggino del Trivial. Ok, vinci il formaggino arancione del Trivial, Giovanni. Luca? Ciao. Luca? Sì? Eccoci. Ok. Allora, io voglio parlare di doping, però vabbè, un minimo inciso ci vuole sulla più grande vittoria olimpica italiana ed è sicuramente Mennea. Senza ombra di dubbio. Me lo ricordo come se fosse ieri. Anche se sono passati già 36 anni, purtroppo. Vabbè. Allora, sul doping o sul priming, dipende da come lo vogliamo vedere. Per come è gestito oggi è una gran presa in giro. Perché è chiaro che chi arriva a un certo livello si dopa, non prendiamoci per il culo, si dopano tutti, dai. Non diciamo cazzate, si dopano tutti. Però sì, ci vogliono le prove. Poi possiamo parlare per colpire, a seconda della circostanza, chi fa più comodo o chi fa più scomodo. Ma come si esce da questa situazione? Perché a mio parere innanzitutto ci sono due soluzioni. A chi fa doping ai bambini, ergastolo. Lì possiamo parlare di ergastolo come minimo, di diversi ergastoli, doping ai bambini. Allora Luca, qui il discorso è complesso, possiamo dire ci sono due estremi a mio parere, sì, quella della liberalizzazione del doping per i professionisti monitorati e del triplo ergastolo per chi pratica doping ai ragazzini, per chi non controlla a sufficienza il doping dei dilettanti, ogni tanto qualcuno ci rimane secco. Questo è un estremo. L'altro estremo è quello dell'ergastolo sportivo a chi viene beccato la prima volta, quindi della radiazione. Ti prendono una volta, a quel punto non è più tanto conveniente dal punto di vista economico, perché con tre anni di squalifica può essere anche un ragionamento biecamente economico. Mi beccano, certo, mi faccio 2 anni di squalifica, poi rientro da Gatlin in giù o in su, e chi si è visto si è visto. Io però domandiamoci perché hanno preso Lance Armstrong dopo 20 anni, che aveva vinto, prima ha fatto vincere 7 tour di fila, e poi lo becca dopo 20 anni. Come mai? Mm-hmm. Come mai? Beh, ma è anche storia di questi giorni, no? Ma non possiamo non domandarci perché. Non possiamo. Luca, però è anche storia di questi giorni, del doping retroattivo di un sacco di sportivi, russi e non, alle Olimpiadi di Londra o addirittura alle Olimpiadi di Pechino. Uguale, ma scusa, erano stati avvertiti, però, avevano detto a loro signori: guardate che i campioni li conserviamo e li ricontrolleremo con le tecniche che saranno a disposizione anche nei prossimi anni. E quindi chi ha barato sapeva di essere esposto a questo tipo di rischio. Ma la pratica qual è? E la usano a seconda della loro convenienza. Ora, era conveniente per ragioni politiche far fuori la Russia, perché Putin sta scassando per svariate ragioni, è forse l'unico che si oppone al strapotere economico dell'Occidente, allora lo stanno punendo. Però insomma, a me sembra che quello che c'è scritto nel rapporto della WADA, per chi l'ha letto, racconti qualcosa che lo sport non può accettare. Poi che i russi non siano gli unici, possiamo anche seguirlo come ragionamento, però qui mi fermerei, perché evidentemente è successo qualcosa, ma lo stanno raccontando gli stessi russi, che pure contestano l'esclusione della squadra di atletica, contestano il tema del doping di Stato. Però non stiamo a raccontarci che qualcuno sta costruendo un grande complotto per spiegarci che a Sochi sono successe cose che non devono e non possono succedere, perché secondo me altrimenti andiamo completamente fuori campo. Paolo, buonasera. Buonasera. Dica. Per me, non so, io non ho sentito la trasmissione nell'ultimo momento. Male, molto male. Mauro Numa, Los Angeles 84. Mm-hmm. Finale fioretto maschile. Sì. Sotto di 4 stoccate a meno di un minuto dalla fine. Pareggia proprio allo scadere del tempo. E poi nel supplementare necessario vince con una stoccata finale da dietro le spalle contro il tedesco Berg. Sì, ricordo. Fantastico. La cosa fu fantastica per me, perché poi ero alla radio, quindi ero in macchina in radio, e un minuto, 4 stoccate, una cosa incredibile e indimenticabile. Sì, ma questa è una delle grandi storie, è una delle grandi storie delle nostre Olimpiadi. Rivista la stoccata finale, fu pazzesca, perché fece una praticamente di spalle, fece un virtuosismo veramente eccezionale. Mm-hmm, mm-hmm. In un momento così importante. È importante, esattamente. Che conta è il gesto, ma soprattutto il momento in cui viene fatto. Grazie. La curiosità era anche che in finale c'era il tedesco Berg, che poi per una fatalità incredibile aveva praticamente ucciso con un russo, mi sembra, un anno prima, 2 anni prima. C'erano anche dei motivi. Sì, un incidente sfondandogli la maschera, se non ricordo male. Sull'occhio. Grazie Paolo, ma però venga ad ascoltarci prima, perché noi cominciamo alle 18 tutte le sere, io e Johnny Capone. No, ma io ho cominciato, 18, poi dalle 18, no, va male, male, dalle, male, 18, male. Dalle 18 alle 20 noi siamo qua. Allora, noi diamo l'indicazione tutto subito in regia: da domani non vengono passate telefonate di chi non ci ascolta o tratti. Non è vero, Paolo, vale che l'ascolto random, di chi non sa. Ci chiedono se siamo in replica notturna. La risposta è no, perché noi non siamo dei VIP come le Iene, quindi noi non fanno la replica, ma si può scaricare il podcast. Oppure possiamo fare in diretta. Si può scaricare il podcast? No, la verità è che noi siamo irripetibili. Quello che sentite qui non è più riproducibile se non in podcast. Io ricordo una lontana Olimpiade di Sydney in cui raccontammo le Olimpiadi ogni notte in diretta, il sottoscritto Giuseppe Cruciani in un cult, che da mezzanotte alle 5-6 del mattino in diretta per Radio 24. Lo faremo nella prossima vita, magari. Leonardo Bertozzi, cioè Giovanni. Leonardo Bertozzi, che è un carissimo collega di ESPN Brasil. e al quale chiederemo conto di tutte quelle cose che abbiamo raccontato, che loro hanno raccontato, delle docce che cadono, insomma, di questo Brasile che non è pronto alle Olimpiadi, anche se mancano 4 giorni, che mi ricorda tanto Milano che non era pronta all'Expo e poi è andato tutto benissimo. E via dicendo. Leonardo, ciao. Ciao, ciao Giovanni, ciao Carlo, ciao, piacere ciao, parlare Leonardo. Con voi. Dai, ristabiliamo un po' la verità dei fatti. Sì, beh, ormai poco tempo all'apertura, 4 giorni. In Brasile ci hanno detto che il brasiliano lascia tutto all'ultimo momento, e così è. Così è stato ai mondiali e così è a questi giochi olimpici. L'ultima settimana è stata un po' problematica, no? Con l'arrivo delle prime delegazioni al villaggio olimpico, soprattutto con le proteste della delegazione dell'Australia, è successo un po' di tutto con loro, gli appartamenti non erano del tutto pronti, poi c'è stato un principio di incendio, hanno dovuto lasciare l'edificio, poi quando sono tornati hanno detto che era sparito un computer e delle magliette della delegazione, ossia è successo un po' di tutto con gli australiani in questi giorni. E poi il prefetto di Rio ha fatto un'uscita disastrosa, ha detto che avrebbe messo un canguro nell'entrata perché affinché si sentissero più a loro agio, e l'hanno presa male evidentemente, poi si sono scusati e adesso stanno cercando di fare la situazione un po' più tranquilla, ma poi si sta tutto sistemando. Noi abbiamo il ricordo dei mondiali che fino al primo giorno c'erano proteste per strade, c'era una situazione politica anche molto confusa qui in Brasile, poi si è cominciato a giocare, è stato un bellissimo mondiale con la gente per strada, con molta festa, solo per la nazionale che non è andata benissimo, però è stato un mondiale ben organizzato da quando è iniziato. Qui si spera che con le Olimpiadi sia un po' la stessa cosa. Sì, va detto che la congiuntura economica non depone a favore, perché Mondiali e Olimpiadi vennero assegnati al Brasile, come ricordiamo, quando era in un periodo di enorme crescita economica. Adesso tutto quanto è cambiato e dopo le Olimpiadi, mettiamo che vada tutto bene, che all'ultimo minuto tutto funzioni, strutture, infrastrutture, eccetera, eccetera, poi alla fine della festa rimarranno i bicchieri da lavare, Leonardo. Sì, appunto. La verità è che tutti pensano di farla come Barcellona nel 92, che c'è stato poi molto, molto bene per la città. Poi pochi pensano ad Atene, no? Nel 2004, fino certo. Ad oggi questo conto si paga. La verità è che il comitato organizzativo dei giochi è già in perdita finanziaria e il Comitato Olimpico Internazionale dovrà aiutarlo, perché non c'è più possibilità di fare un profitto con questi giochi. Affinché ci sarà questo aiuto, perché tutto vada bene all'ultimo momento. E di quello che rimarrà per Rio de Janeiro c'è anche molta preoccupazione. Poi il parco olimpico è stato fatto dove era l'antico autodromo di Jacarepaguá. Sì. Non so se voi siete fatti la Formula 1 negli anni 80, però era lì le gare di Formula 1 in Brasile. Prima di Interlagos erano lì, poi hanno smontato l'autodromo, avevano promesso un altro in un'altra parte e poi non l'hanno fatto, non so se lo faranno. Il 2007 hanno fatto i giochi panamericani e si prometteva che molte delle installazioni dei panamericani servivano alle Olimpiadi, che poi non era verità, hanno perso molte di quelle installazioni perché non erano sufficientemente buone per i giochi olimpici, e qui non è che c'è una cultura multisportiva, no? Il Brasile è molto una nazione del calcio, però non è una nazione del tutto olimpica, non si seguono molto molto tutti gli altri sport, qui diciamo che si segue dove il brasiliano vince. Quindi quando c'era Gustavo Kirten si piaceva il tennis, quando c'era Ayrton Senna si seguiva la Formula 1, poi si segue dove vince il brasiliano, quindi nelle Olimpiadi c'è interesse per il judo dove vanno bene, per il pallavolo dove vanno bene, tutti questi sport dove si va bene. Si aveva un'aspettativa di formare nuovi atleti per diverse modalità, questo si dice, non è successo, il Brasile non ha un'aspettativa di medaglie molto molto più forte di Londra 2012, certo, più delle 17 medaglie di 4 anni fa, si spera, però quella storia di facciamo del Brasile una potenza olimpica, una nazione multisportiva, quello si sa già che non succederà. Insomma, È la conferma che non sempre è una scommessa vincere, prendersi un'Olimpiade, tema che qui da noi è apertissimo, perché si discute della candidatura per Roma 2024. Tu prima citavi Leonardo, Barcellona 1992, non c'è solo il parallelismo al contrario con Atene 2004, Barcellona 92 è forse l'ultima e unica Olimpiade dell'era moderna ad aver prodotto dei risultati positivi dal punto di vista economico. Cioè, non c'è solo il crack di Atene 2004, anche a Londra, anche a Pechino poi con dei costi pazzeschi, non sono riusciti a guadagnarci con le Olimpiadi e credo che da qui in poi sarà difficile pensare che qualcuno possa fare questa operazione. Quello che dispiace è, sentendo Leonardo, par di capire che non ci sia tutto questo accompagnamento di popolo per quella che comunque dovrebbe restare una festa, anche se poi il Brasile non è una potenza che farà incetta di medaglie. Sì, la verità è questa. Poi il brasiliano, sapete com'è, è un popolo molto che riceve molto bene quelli che vengono da fuori. Cito sempre i mondiali perché quelli che sono venuti sono stati molto contenti del viaggio, no? Alcune notizie che vanno fuori dal Brasile, bisogna anche dire che sono un po' esagerate. La preoccupazione con il virus Zika, per esempio, è già una cosa diminuita qui in Brasile, perché in questo momento qui è inverno e la proliferazione del virus non è così forte come è stata, per esempio, in estate qui. Si sente che molti atleti di alcuni sport, come il golf, come il tennis, dove le Olimpiadi non sono il massimo, dicono questa scusa dello Zika perché non vogliono venire. Alcuni del golf hanno detto chiaramente, come McIlroy, che ha detto: io faccio i majors perché voglio vincere i majors, non voglio aiutare il palcoscenico golf a crescere. È bello, Leonardo, cioè il palcoscenico, è inutile inventarsi un palcoscenico olimpico per sport che non hanno questo tipo di tradizione, senza nulla togliere la dignità di questi sport. Certo. Bisogna essere sinceri, no? Se non si vuole venire, non si vuole venire, perché ormai si aumenta una preoccupazione. L'altro giorno c'era la portiera degli Stati Uniti, Hope Solo, che metteva una foto con la maschera come se fosse, non so, alla guerra, e poi è arrivata qui e ha chiesto scusa, visto che non sono così. Questa storia dello Zika è importante che si dica, che in questo momento non è una preoccupazione massima qui in Brasile, è forse un po' una realtà un po' aumentata fuori. Però gli altri problemi, sì, guarda, il Rio de Janeiro è una città violenta, è una società violenta, diciamo così, no? Con la storia dei trafficanti di droghe e queste cose. È un problema nazionale questo. Però bisogna sempre stare attenti, però altri problemi mi sembrano un po' aumentati da qui a fuori. Grazie Leonardo, ci sentiamo in corso d'opera. Grazie Leonardo Bertozzi intanto dal Brasile. E oggi leggevo, come te Giovanni Capuano, questo articolo: Olimpiadi, turisti italiani pronti a invadere Rio. Quindi magari è anche vero che i brasiliani non piedi importano tu. Ah, magari gli italiani più. Questa è la bellissima canzone Alma e Curaçao. Aspetta, in olimpico, la canzone olimpica. Allora lo cantano Pro Jota e Tiaguinho, uno dei due, non so quale, perché non me l'hanno detto. Ha vinto un talent fama della televisione brasiliana Globo. Ragazzi, sono esperti. Queste sono robe di Claudio Schiattone, Lorenzo Nespo, di noi le facciamo sentire. Salutiamo Claudio Del Bianco, ci dissociamo. Claudio Del Bianco, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ma è vero o no che stiamo venendo a frotte noi italiani a Rio de Janeiro per le Olimpiadi? Capo del tour operator Del Blanco, uno dei grandi movimenti di persone verso il Brasile, dei grandi vettori. Sì, sì. Da bastanti stanno prenotando per partecipare e godere, diciamo, i giochi olimpici a Rio de Janeiro, che veramente ricca, c'è molta richiesta e andrà tutto bene. Alcuni problemi ci sono, però devo dire che è abbastanza pronta la città per l'inizio delle Olimpiadi. Ma quindi tanti italiani che vanno a Rio non solo per andare a Copacabana o Ipanema, ma anche per vedere i giochi. Sì, sì, tantissimi. Molti approfittano per poi fare, diciamo, un soggiorno in altre città, già approfittando che sono qua in Brasile. Tanto oggi abbiamo letto che l'80% dei biglietti sono stati venduti, quindi almeno da questo punto di vista dovremmo vedere degli impianti pieni. Ma c'è ancora qualche posto al di là negli stadi, nelle strutture di Rio? Sì, ancora ci sono dei posti, dura poca cosa, ma ci sono ancora posti letti in albergo, appartamenti, se c'è una richiesta last minute. Ah, quindi last minute alle Olimpiadi, dunque grande richiesta, gli italiani non si fanno sfuggire l'occasione. D'altra parte siamo un popolo che per molte ragioni il Brasile lo ama molto, lo ama tantissimo. Vero. Non nascondiamo, siete uno dei primi dell'Europa sul Brasile. Lo so bene, mio caro Claudio Del Bianco, anche quando non ci sono le Olimpiadi, gli italiani in Brasile vanno spesso e volentieri, al di là della crisi economica. Grazie, buon lavoro. Grazie Claudio Del Bianco. Dunque, hai capito? Gli unici che stanno a casa siamo io e te. Sì, noi siamo qui, gli altri vanno. Poi Ricci va, Turrini va alla sua centesima Olimpiade. Io domani bigio, però vi lascio un compito. Ha scritto un amico 349-238-6666. A proposito, non lasciarvi dei da domani compiti, potete anche capace. Mandarci dei WhatsApp audio. Ah, bello questo, 349-238-6666. Per cortesia, dite delle cose che si possono trasmettere. Oppure no. Però io vi lascio questo compito. Claudio Campomarino chiede, e rigireremo la domanda a Leo Turrini, in passato alcune gare di maratona si sono vinte da atleti a piedi nudi. È ancora consentito correre scalzi? Queste sono le grandi domande che noi gireremo a Leo Turrini. Voi girerete domani a Leo Turrini, Claudio Campomarino. Mi raccomando, segnatevelo. Dunque, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Riccardo. Sì, pronto. Buonasera a voi. Dica. La vittoria più bella, io mi ricordo, e poi vi spiego anche perché, la vittoria della pallanuoto italiana nel 92 in finale con la Spagna. Sì, e anche la mia vittoria del cuore, eh? Anche la tua, esatto. Sotto gli occhi del re. La vittoria più che mi ha emozionato di più ed è rimasta indelebile in casa nostra, perché io stavo dando il bianco in cucina, sì. Poi interrompevo per seguire la partita, poi ricominciavo e alla fine la cucina è diventata tutto un gioco di ombre. Si è sbrodolata tutta, insomma. Che è rimasto nel tempo. E quindi la moglie poi dopo è rimasta nel tempo anche la rabbiatura. Ma come hai fatto a fare questi effetti? No, ma... c'è psichedelia, giochi psichedelici, giochi di luce, giochi di colore. Ma siccome sono passati 24 anni, l'hai ripitturata poi la cucina o è ancora lì così? No, l'abbiamo ridipinta. Male, molto male. Era un cimelio, esatto. E poi soprattutto. Ma era veramente spettacolare. La gente vedeva, che strani giochi. Era un'opera d'arte irripetibile, mutuata dalle emozioni sportive. Quindi, malissimo. Voto basso a Riccardo che ha ridipinto la cucina dopo quella medaglia. Ci dobbiamo fermare, Davvero? Finito. Domani. Domani pure in podcast, in podcast. Podcast vale sempre. Domani, allora, tutti convocati dalle 14 alle 15 e tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. E vi aspettiamo tutti i giorni e tutte le sere. Grazie. Giovanni Capuano, padrone di casa. Pietro Lacorte in regia. Claudia Schiattone. Lorenzo Nespoli. Ciao a tutti. Andiamo a vincere ancora!